Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica a tutti, cari radioascoltatori e gastronauti, magari in viaggio. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che è prettamente estivo e lo voglio annunciare così. Sono bianchi, rossi e gialli, hanno sapori diversi e possono venire usati in cucina, nelle mostarde, nei dolci e per dissetarsi appunto durante l'estate. Sono i meloni. I porto tre raut. Io guido la pecar. Udre rod rabioage. La pecar della piaggio. Ma scedi quattro mattina. Mi alzo alle 4 del mattino. E cocca potevo di quante 10. A volte mi sveglio più tardi. E poi vado al mercato. E poi vado al mercato. E magari che mi. E faccio il carico di cocumeri. Ma si chiamano cocomeri o anguria? E perché questi nomi diversi a secondo dei territori? Io ricordo che dalle mie parti in Romagna li conoscevo come cocomeri. Poi ho girato un po' l'Italia e li ho conosciuti come anguria. Ma cosa c'è dietro a questi due nomi? Ebbene, ora lo chiediamo a un personaggio che ogni tanto abbiamo chiamato durante le nostre trasmissioni quando abbiamo questi dubbi amletici. Buongiorno a Cecilia Robustelli, docente di linguistica all'Università di Bologna. Buongiorno Cecilia. Buongiorno, io sono docente all'Università di Modena. Di Modena. Possiamo allargare all'intera Emilia. Va bene, sì, ho sbagliato io, ho letto male addirittura, pensa te, perché avevo scritto giusto, vabbè. Io sono di un territorio che chiama quel frutto di cui tu parli cocomero. In Toscana sicuramente si chiama cocomero, ma la varietà anguria è una varietà diffusa altrove, diffusa soprattutto in Italia settentrionale. Ora, ci si può chiedere, ma perché la stessa cosa ha due nomi? Beh, prima di tutto non è l'unico caso. Si pensi a melone e a mortadella, che è un affettato ben noto in Emilia. Si pensi a branzino e a spigola, che sono lo stesso pesce. Tanti cose da mangiare hanno nomi diversi. Si chiamano geosinonimi. Geosinonimo è un termine che indica, con un nome diverso a seconda della zona, la stessa cosa. Beh, innanzitutto perché l'Italia, come sappiamo, è una tradizione anche municipale, quindi questi nomi coesistono. Del resto la lingua italiana non è nata da moltissimo tempo, quindi mantiene queste variazioni. E un altro caso è quello di melone e di popone, che è ancora più complicato. Certo, certo. E se al supermercato si chiedono due etti di melone, ti tagliano due fette di mortadella o ti tagliano due fette del frutto? Bisogna essere in grado di conoscere queste differenze. Popone è soprattutto una variante toscana, ma se posso tornare un attimo al cocomero, sì. È interessante il fatto che in una descrizione che ne fece Linneo, il famoso Linneo, nato nel 1700, che noi chiamiamo così, ma in realtà era uno studioso, chiamo così, dicevo amichevolmente, ma era uno studioso svedese che ha provvisto una classificazione eccellente di botanica, ecco, e il nome del cocomero sarebbe Cucumis anguria. Ah. Quindi da una parte abbiamo la conservazione del termine latino che era cucumis, e invece in alcune parti è stata conservata l'altra parte, cioè quella di anguria. Quindi beh, abbiamo che tutte e due le varianti derivano, sì, in realtà dalla stessa nome. Cosa. Ora, e però, buon cocomero a tutti. Grazie, bene, ora abbiamo parlato appunto di cocomero, ma anche di melone. Abbiamo sentito melone o popone. Bene, andiamo in un'area, in un territorio che ormai è diventato un po' la capitale. Andiamo nel Mantovano e soprattutto andiamo a Sermide. E qui Francesca Nadalini è sia produttrice ma anche presidente, anzi consigliere del consorzio, appunto, perché il melone di Sermide ha l'IGP, anzi il melone di Mantova, che è il consorzio di tutela del melone mantovano. Buongiorno Francesca. Buongiorno a tutti. Francesca, ma è recente la storia del melone per il territorio mantovano o risale indietro nel tempo? No, è recente ormai la promozione di questo territorio, perché in realtà il melone si coltivava nelle nostre aree sin dai tempi dei Gonzaga. Abbiamo trovato numerose attestazioni, sia documentali, ci sono delle lettere molto interessanti di alcuni contadini che andavano verso i Gonzaga a portare in omaggio i preziosi meloni. Melloni ai tempi venivano chiamati con due L. E addirittura nella chiesa di Santa Croce di Sermide, qualche anno fa, durante i restauri dell'abside, che era tutta coperta dalla fuliggine delle candele che si era coperta nei secoli, praticamente hanno trovato delle decorazioni in cui i frutti rappresentati sono addirittura dei meloni, quindi di fattezze un po' diverse da quelle che oggi conosciamo, un po' più simili alle zucche, ma comunque questo attesta che il nostro territorio era vocato fin dai tempi proprio per la coltivazione di questo frutto graditissimo, ecco, soprattutto d'estate. Vocato per cosa? Per il territorio? Per la terra? Per la terra? Il terreno sì, il terreno sicuramente ha fatto la differenza, perché i nostri sono terreni alluvionali, quindi l'origine fa sì che praticamente la componente di argilla della terra permetta praticamente di trasmettere al meglio, io in questo momento semplifico per comunicare meglio, ma comunque tramite l'argilla si riescono ad avere dei minerali e delle proprietà organolettiche migliori rispetto ad altre zone d'Italia. E il microclima altrettanto, perché nell'immaginario si pensa che i meloni vengano coltivati dove c'è molto caldo, al sud ad esempio. In realtà la pianta del melone è una pianta abbastanza delicata, che ha bisogno di un clima temperato piuttosto, quindi senza grandissime escursioni termiche e soprattutto senza troppo caldo, come è appunto qui nella nostra zona. Ecco, la vostra zona è vocata per il melone liscio o quello a rete? Beh, direi che noi siamo famosi per il melone liscio, soprattutto la bassa mantovana si è specializzata in questo frutto molto particolare, che desta molta sorpresa, in quanto appunto non ha la rete assolutamente e non ha nemmeno il segno della fetta. È un melone completamente liscio, che profuma molto, che ha una polpa più chiara rispetto al melone retato, è più color salmone, ma che dal punto di vista dell'aroma e del gusto ha veramente delle proprietà uniche. Poi ovviamente coltiviamo anche il melone retato, sia con la fetta sia senza fetta, e tutte e tre queste tipologie sono quelle che il consorzio del melone mantovano IGP ha identificato come tipiche del nostro areale. Ecco, ci dia un segreto: come si fa quando si va da un fruttivendolo, magari si vede la cesta di tanti meloni e si chiede al fruttivendolo, me ne dia uno dolce, non mi dia una fregatura, e lui fa finta di annusare, perché in realtà fa finta di annusare, di toccarlo, ma veramente in questa maniera si riesce a distinguere, oppure già quando arrivano i meloni sa benissimo quali sono quelli, diciamo, di primo prezzo e invece gli altri, insomma, quelli da scartare, da dare al consumatore di passaggio? Mi viene da ridere, perché effettivamente questa è la domanda che in assoluto il consumatore pone più di frequente, e noi diciamo sempre, all'interno ovviamente del settore professionale, io penso che un fruttivendolo specializzato sappia se il melone è buono in partenza, perché ovviamente si consolidano dei marchi e si consolidano delle zone di provenienza che danno garanzia. In questo caso noi con il riconoscimento del melone, del marchio IGP, stiamo cercando appunto di tenere alta la selezione e dare una continuità e sulla garanzia della bontà di questo prodotto, perché il vero problema è che appunto è difficile riconoscere da fuori un melone buono da uno non buono. L'unica cosa, anche perché poi negli anni le varietà sono molto cambiate, quindi la buccia può essere anche, soprattutto nel caso del retato, anche verde scuro, ma questo non vuol dire che il melone dentro è meno buono, assolutamente. Ci può essere il picciolo o non esserci, e questo è piuttosto un indice di maturazione piuttosto che di bontà. L'unica cosa che dico sempre è che, diciamo così, a parità di dimensioni, quando uno soppesa due meloni, quello più buono tendenzialmente è quello più pesante, perché ha comunque una concentrazione di zuccheri maggiore e soprattutto una placenta ben formata, che sarebbe quella dove ci sono tutti tutti i filamenti e i semi, e magari ridotta. In questo modo il melone pesa molto, e quando pesa di più, bene, tendenzialmente significa che è più zuccherino. Bene, un segreto ce l'ha dato. Io sono convinto che il melone si vede una volta che si è aperto, purtroppo la sorpresa si ha una volta a casa. Io la ringrazio, grazie a Francesca Nadalini. In linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Meloni, angurie o cocomeri, abbiamo sentito che appunto ci sono differenze, ma solamente nominalistiche, perché di nomi, perché anguria e cocomero ovviamente sono la stessa cosa, e dipende da dove si è, se si è in Alta Italia, se si è nel centro o si è al sud. Invece il melone si chiama dappertutto così, ma c'è anche chi lo scambia per la mortadella, quindi bisogna stare molto attenti con le parole, perché non vorrei, cari ascoltatori, che entraste in un negozio, chiedere un melone e vi fosse servito un 3 fette di mortadella. E ricordatevi che in Toscana si chiama popone, quindi pensate un po' quante differenze, com'è la lingua italiana così variegata. Ma ho detto prima che il melone e anguria non vengono solamente utilizzati per essere mangiati a fette per dissetarsi, ma possono venire usati in cucina, appunto, per antipasti e anche per piatti, poi lo vedremo comunque, ma anche nelle mostarde. E a proposito di mostarde, è con noi Gianfranco Allari delle Tamerici. Buongiorno Allari. Buongiorno. Allora Allari, io Ricordo che sono rimasto molto sorpreso la prima volta che sono venuto a visitare le Tamerici, che ho assistito a una degustazione di una mostarda che era di cocomero bianco. E a un certo punto, anzi di melone, sì, cocomero bianco, melone bianco, mi ricordo. Cocomero, vero? Cocomero. E mi sono sentito dire, in realtà questo qui viene usato nelle campagne per dar da mangiare ai maiali e, diciamo, appunto a tutto il resto che sono animali, ma non viene mai utilizzato. Voi vi siete reinventati però il modo di utilizzarlo. Sì, è una varietà di anguria che viene utilizzata come base di innesto, diciamo, per l'anguria, principalmente quella rossa. Il frutto che se ne ricava è un frutto dall'aspetto esteriore simile a quella tradizionale, solo che l'interno rimane completamente bianco, quindi ha un gusto spiccatamente erbaceo e molto tannico all'assaggio. Quindi l'unico modo, in qualche modo, per andarla a utilizzare è quella di trasformarla in mostarda, come facciamo noi, oppure in confettura, quindi andarla ad aggiungere la parte zuccherina che in realtà manca. Questo frutto, che veniva lasciato assolutamente nei campi, l'unico modo per trasformarlo, quindi renderlo edibile, era quello appunto di andarlo a addizionare con dello zucchero. Mostarda in primis, perché a Mantova diciamo che c'è la tradizione di mostarda, oppure confettura. L'abbinamento classico è quello col bollito, però la sua particolarità, la sua consistenza piuttosto gelatinosa perché non è croccante, la rende perfetta ad esempio con tutti i salumi, quelli grassi, quindi diciamo pancette o lardi. E quindi sicuramente diciamo che avete reinventato un modo per utilizzarla. Rimanga con noi, perché ora andiamo a Viadana, siamo sempre nel Mantovano. Siamo sempre nel Mantovano, che, come dicevo, ormai è diventata la terra principale, il territorio, diciamo, principale per la produzione di meloni, ma sempre più stanno venendo fuori nella provincia appunto di Mantova delle enclave particolari per la produzione. Sentiamo Alex Santelli, che rappresenta la produzione di Viadana. Buongiorno Santelli. Buongiorno. Che cosa c'ha di particolare il melone che producete voi in questo territorio, che è Viadana, chiariamolo, è un borgo del Mantovano? Che cosa c'ha di particolare rispetto ad altri? È il terreno diverso? Beh, sì, diciamo che il melone viadanese si contraddistingue per le sue caratteristiche gustative, per il suo profumo, per il suo aroma, che in pratica è il territorio e i terreni vocati di Viadana che sanno dare questo frutto. Poi dopo bisogna aggiungere anche che per produrre meloni di alta qualità noi come azienda pratichiamo il diradamento dei frutti, che è molto importante per produrre meloni di altissima qualità, e cioè consiste in pratica togliere frutti in modo tale che la pianta, portando a termine molti meno frutti di quelli che normalmente producono le piante, si riesce ad ottenere un frutto di altissima qualità. Ecco. Vi state avvicinando sempre più al vino? La tecnica è sempre quella e i risultati sono identici, ecco, perché riusciamo ad ottenere veramente dei meloni di altissima qualità. Santelli, voi producete solo meloni o anche cocomeri o anguria, che dir si voglia? Sì, noi produciamo sia meloni, cocomeri e negli ultimi anni anche zucche, e anche quello abbiamo avuto un riscontro molto importante, perché la zucca in questa zona è molto conosciuta e ci sta ritagliando un bel po' di soddisfazione. Beh, fa parte della tradizione, diciamo, gastronomica del vostro territorio e quindi sicuramente può avere un grande sviluppo. Voi non producete cocomeri bianchi, come abbiamo sentito prima? No, noi produciamo cocomere tradizionale, quelle solite, perché insomma per noi è ancora il frutto che ci dà le garanzie di qualità, per noi è il migliore in assoluto e la nostra azienda ha puntato tutto sull'alta qualità, non fa cose diverse da questo. Rimanga con noi, torno un momento ad Allari. Volevo chiedere a Allari, cioè il cocomero bianco è prodotto nella zona sempre nel Mantovano, non è che viene da fuori? No, sempre nel Mantovano. Ecco, può essere usato anche in cucina questo cocomero bianco? Deve essere comunque trasformato, nel senso che la cottura dello zucchero sono fondamentali per poi avere un prodotto piacevole, ecco, al palato, proprio perché, come dicevo prima, le caratteristiche del frutto acerbo sono poco piacevoli, nel senso che risultano sgradevoli al palato, quindi diciamo che la cottura è un elemento che serve per renderlo più più mangiabile, diciamo così. Ecco, volevo chiedere, nella vostra produzione utilizzate anche cocomero, quindi cocomero rosso, e anche meloni per ottenere mostarde, salse o d'altro? No, noi come prodotti abbiamo appunto questa di anguria bianca o cocomero bianco e poi abbiamo una mostarda di melone. Di melone, quindi anche una mostarda di melone. Questa è poi molto più delicata, immagino. Questa sì, perché questa viene fatta con un frutto che è a maturazione, ancora sodo, però ecco, diciamo che mantiene le caratteristiche del frutto. C'è solo l'aggiunta della senape che gli dà questa nota piccante che è una caratteristica della mostarda mantovana. Bene, grazie ad Allari del Tamerici, la ringrazio. Torno a Santelli perché voglio chiedere, voi producete cocomeri e meloni, ci dà un segreto per quando si va dal fruttivendolo come scegliere il melone, come scegliere il cocomero? Ma guardi, lì non ci sono, diciamo, visivamente delle cose che possono far capire che un melone è di qualità o meno. Naturalmente l'azienda, uno deve avere fiducia dell'azienda, l'azienda che si impone nel produrre meloni e cocomere di alta qualità, lì va un po' a fiducia, perché altrimenti è ben difficile riuscire a distinguere il cocomero se è maturo al momento giusto, se no la cosa diventa molto difficile, ecco. Quindi diciamo che tutte le messe in scena che vediamo negli ortofrutta, insomma, avvicinare l'orecchio per sentire oppure annusare, fanno parte della tradizione del fruttivendolo. Sì, esatto. No, sì, sono tradizioni antiche quelle che noi come azienda abbiamo adottato, per esempio, ecco, per quanto riguarda la raccolta del cocomero, un sistema che non sbaglia mai, e cioè consiste nel nastrare il frutticino appena allegato in base, diciamo, al tempo di allegagione, con colori diversi nel giro di una settimana. Dopo 45 giorni noi andiamo a raccogliere questi frutti nastrati e non ne sbaglia neanche uno. Questa è la tecnica migliore per riuscire, per esempio, a raccogliere un prodotto maturo come si deve. La ringrazio, linea alla regia, torneremo fra poco, sempre parlando di meloni e cocomeri. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Meloni, cocomeri, anguria. Bene, mi sembra di essere diventato un fruttivendolo volante, magari in un carretto, magari in un'ape, come in questo momento se ne trovano tanti in giro per le strade. Ma abbiamo parlato appunto che i meloni e i cocomeri possono avere tantissimi utilizzi. Abbiamo detto appunto mostarde, abbiamo detto in cucina, abbiamo detto nei dolci, per dissetarsi, ma possono diventare anche delle straordinarie granite e dei grandi gelati. Allora andiamo a Firenze, andiamo alla gelateria Carabè. Buongiorno Antonio Lisciandro. Buongiorno a voi, grazie a tutti. Buongiorno Antonio. Allora, Antonio è stato uno dei primi a portare a Firenze queste specialità siciliane e soprattutto ricordo che i tempi in cui io vivevo proprio a Firenze era diventato famoso per le granite, soprattutto la granita all'anguria o cocomero, che dir si voglia. Antonio, lei continua a farle queste granite? Assolutamente sì, oggi non posso più permettermi di non produrre quella che è stata la ragione che mi portò a suo tempo qui a Firenze. Io infatti arrivai a Firenze perché a Firenze nessuno faceva le granite nel lontano 89 e continuo a fare, sì, sia il cocomero che l'anguria, non possono mancare. Beh, come? Fa cocomero e anguria non sono la stessa cosa? Esatto, qui cado appunto in quello che il punto di diversità di intendere il cocomero e l'anguria, va bene, in Sicilia. Noi facciamo infatti la distinzione tra chiamando per cocomero e per anguria appunto il melone d'acqua o cocomero. Il melone invece, il melone quello retinato, il proteo, quello appunto famoso nostro di Pachino. Queste sono le cose che ci identificano un attimino, ecco. Ecco, lei ha parlato di Pachino. Pachino è famoso come il mantovano. Lei non usa magari anche le angurie e i cocomeri che arrivano dal mantovano? Ma le uso tutte. Allora, noi grazie a Dio, il nostro territorio, l'Italia, ci offre dei prodotti, delle eccellenze che non conoscono, che a prescindere dalle regionalità si distinguono per tipicità, ecco. Di solito comunque ci affidiamo sempre ai nostri fornitori di fiducia, quello che il mercato ci offre, sempre prodotti di eccellenza, si capisce? Senta, in gelateria lo usa il cocomero o il melone, o il popone come chiamano a Firenze, lei lo usa? Noi lo usiamo tanto per fare i gelati di frutta di scuola siciliana, quindi frutta, acqua e zucchero, quanto per fare le granite. Poi le granite le proponiamo tanto semplice così come sono, quindi frutto della trasformazione, la combinazione di acqua, frutta e zucchero, oppure con la nota alcolica. Io ricordo quando ero giù in Sicilia, gli facevo le punture di vodka, oppure di gin, oppure di tequila ai meloni, e questi si pigliavano di sapore. E poi ai miei clienti gli dicevo che invece che dargli l'acqua, gli davo la tequila, il vodka, il gin e me ne facevo pagare qualcosa di più. Bene, non male, non male, caro Antonio, rimanga con noi. Ora andiamo a Milano da un personaggio molto noto, uno chef che diciamo è stato l'apripista dei ristoranti vegetariani e poi vegani, ma addirittura è l'unico stellato. Andiamo da Pietro Lehmann del ristorante Gioia. Perché? Buongiorno Pietro. Ciao Davide, come stai? Bene. Pietro, io sono venuto da te recentemente e ho assaggiato un antipasto a base di anguria che mi ha molto colpito. E allora, l'anguria si può usare in cucina? Sì, si può usare, e come lo faccio io è anche interessante, perché in realtà l'anguria non è data cruda ma viene arrostita e quindi si compatta e si concentra il gusto. E poi lo scaleppiamo e diventa quasi un carpaccio di carne. Infatti io ero perplesso quando l'ho visto, ho detto avevo ordinato questo ma mi è arrivata un'altra cosa. Magari poi Lehmann è impazzito. Invece non lo era. Bene, si possono fare anche questi miracoli quindi in cucina? Sì, in realtà dal mio punto di vista è un po' atipico, perché sai, quello che io faccio, rifugo sempre l'imitazione della carne perché io faccio altro. Sì. Però quella preparazione mi sembra particolarmente interessante, anche perché non so se tu l'hai assaggiata, ma secondo me è anche meglio del carpaccio di carne proprio da un punto di vista del gusto, perché è fragrante, molto divertente, molto molto buona. Senti, quindi puoi dare dei consigli magari se qualcuno vuol tentare di farla a casa? Dunque, l'anguria va pelata e tagliata a tocchi e poi vanno tolti un pochino i semi, però oggi ci sono angurie che hanno anche pochi semi, quindi non è un grosso problema. E in seguito viene arrostita in una padella a fuoco vivo e poi messa ancora un po' in forno per continuare a compattarsi. Ci vorranno circa 20 minuti di cottura arrostita e altri 20 in forno a 180 gradi. poi viene fatta sgocciolare e raffreddata completamente, a quel punto si può scalopparla. Sempre per l'anguria, perché l'anguria si mangia sempre dolce, ma in realtà un'altra cosa buonissima che a me piace è il gaffaccio di anguria, che si abbina benissimo, per esempio l'anguria si abbina molto bene con il pomodoro, quindi si può fare un gaspaccio tra il pomodoro e l'anguria, magari con un pochino di peperone, che è anche molto interessante. Senti, ma il cetriolo ci va in questo caso? Il cetriolo no, perché l'anguria è già in fondo un cetriolone. Sì, certo. Beh, questo sarebbe un gaspaccio per me, perché io ho dei problemi con il cetriolo. Quindi devo dire che questa è una soluzione, anche se appartengono poi alla stessa famiglia. Quindi, ma l'anguria riesco a mangiarla, invece il cetriolo proprio non riesco a digerire. Tu usi altre il melone, lo usi in cucina? Il melone lo uso, e adesso per esempio c'è un piatto che si chiama Solaris, che è una terrina di tapiocche con una raffinatura all'interno, e sotto c'è una salsa di carote arance e sopra un sorbetto di melone, che si abbina benissimo, perché poi il melone è già di per sé stesso dolce, quindi ha bisogno di pochissimo zucchero, e poi gli mettiamo un po' di succo di limone per renderlo meno stucchevole. E altrimenti il melone, io trovo, perché il difficile, ma immagino ne avrete parlato, è la scelta del melone, che sì. Se non è dolce non è buono, però poi invece il melone io trovo che sia un frutto strepitoso per l'estate, perché poi dà tantissima acqua, dà vitamine, veramente eccezionale. Io ho chiesto a due produttori segreti per poterlo scegliere, mi hanno spiegato che, diciamo, che quando si va dal fruttivendolo, che annusa, che pesa, ha detto niente da fare, cioè la realtà è capire da dove arriva e dalle indicazioni del produttore, perché è quasi impossibile distinguerlo così ad occhio oppure prenderlo in mano. Queste sono le indicazioni. Comunque rimani ancora un po' con noi, Pietro, perché ora vado da un personaggio che, diciamo, ricordate quanti carrettini c'erano in giro per l'Italia? Io guido la Pecar. Udre road la pioggia. La Pecar della piaggio. Ma scedi quanta mattina. Mi alzo alle 4 del mattino. E cocca potevo di quante 10. A volte mi sveglio più tardi. E poi vado al mercato. E poi vado al mercato. E faccio il carico di cocumeri. Bene, abbiamo sentito. Buongiorno a Gino Pellegrino dell'Oasi da Gino a Milano, Famagosta, Porta Genova. Buongiorno. Senta, ciao. Gino, siete rimasti in pochi? Ma qui a Milano siamo rimasti in tre, come cocomerai. Poi diciamo c'è anche qualche chiosco di panini o diciamo caffetteria che vende anche delle angurie, però come cocomerai siamo rimasti in tre. Perché questo? Cioè, è difficile, è una vita dura, oppure diciamo che la gente è sempre meno portata ad andarsi a mangiare la fetta di melone in pubblico? No, non è questione, perché a Milano diciamo è da generazioni mangiare la fetta d'anguria, cioè come è una tradizione più che altro. No, diciamo che sono eliminati perché un po' i costi, un po' anche perché le ore sono tante e qualcuno ha deciso di eliminare, diciamo. Noi ancora ce la facciamo. Senta Gino, lei ha un segreto per scegliere i cocomeri quando va al mercato? Ma io più che un segreto, ho un commerciante, diciamo, che me le porta, me le consegna, so dove le compra, io tratto le mantovane, so chi le produce, so come le produce, diciamo che la qualità è quella che è. Cioè, naturalmente le capisco anch'io, perché so quello che devo comprare, anche perché io taglio le fette, non posso prendere roba. Certo. Poi a me le angurie, diciamo, vengono scelte a una. Ecco, quindi diciamo che il segreto è sempre sapere chi ha prodotto, e questo è il punto. Il segreto è quello, diciamo che le mantovane, essendo che le coltivano tra la sabbia, poi ci sono vicino al mare, tra mare e montagna, per me è la migliore anguria. Anche perché quando arriva questo periodo è l'unica che potresti tagliare. Quanto costa una fetta oggi? Ma la fetta costa ancora 4 euro, sono ormai quasi 10 anni che costa sempre 4 euro. Quindi il prezzo è rimasto fisso? È rimasto quello, perché purtroppo anche se i costi aumentano, ma per l'esigenza della persona, e i tempi che ci troviamo non possiamo fare più tanto, diciamo, non possiamo andare oltre. Bene, grazie a Gino Pellegrino, uno dei tre superstiti a Milano, Oasi da Gino, quindi chi avesse voglia di mangiare una fetta di cocomero può andare nella zona Famagosta. Ma ora voglio tornare un secondo da Pietro Lehmann, perché abbiamo parlato appunto di anguria e di meloni, e devo dire che nell'ultima sua battuta ha spiegato cosa contiene il melone, perché secondo me questo è molto importante. Mentre Pietro, io credo che l'anguria abbia meno ricchezza, più, virgolette, è più diluita, però anche quella sale minerali. È una cosa da un punto di vista gastronomico che non diceva l'anguriaio molto simpatico, che e poi sono tutti frutti che è molto buono mangiarli belli freschi, quindi belli freddi, ed è proprio il simbolo dell'estate, il simbolo primo dell'estate. Ma anche perché l'anguria è difficile da abbinare, mentre il melone può avere tantissimi abbinamenti oltre quelli che tu hai chiesto, anche molto semplici, per cui si può combinare con tantissime cose senza arrivare alla carne, ovviamente. Perché certo. Io all'Expo l'ho assaggiata in granita, era buonissima, e con l'anguria viene buonissimo anche un centrifugato di anguria, perché poi ha tantissima acqua, magari con un po' di zenzero è eccezionale. Ecco, la cosa è che l'anguria, appena la fai, devi berla, perché si ossida subito, ha subito quel gusto di cotto che poi ha perso tutte le vitamine, quindi va fatta e mangiata. Ecco, tu hai citato la granita, abbiamo sentito prima, è ancora con noi Antonio Lisciandro della gelateria Carabè di Firenze, esperto appunto nelle granite. Senta Antonio, lei a Firenze però ha portato le granite siciliane, ma non ha portato però la colazione della brioche con dentro la granita. Lei ha perfettamente ragione, mio caro amico, però il discorso è questo: il gelatiere si limita a fare gelato e granita, la brioche è cosa o di pasticceria o di panetteria, e questo a me purtroppo a Firenze non sono riuscito a trovare nessuno capace di farlo. Però lo propongo col biscotto di pasta frolla oppure con il pane, perché la brioche è stata una delle ultime innovazioni nella cultura del consumo della granita come prima colazione, perché io quando ero ragazzino si usava ancora prima della brioche appunto o il biscotto di pasta frolla col sesamo cucinino di sopra, oppure solo il pane, e credete che non c'è niente di più buono di una fetta di pane inzuppata nella granita di mandorla, così come si faceva per i bambini più inappetenti. Ah, quindi granita di mandorla? Granita di mandorla, perché la mandorla gli dava energia, però qualunque cosa, il limone, io d'anguria ad esempio, con l'anguria faccio la versione gelino d'anguria, la polpa di anguria lavorata con la cannella e i chicchi di cioccolate che rappresentano i semi, mentre invece il melone lo servo anche, faccio degli involtini di prosciutto crudo ripieni di granita di melone. Bene, grazie a Pietro Lehmann, grazie a Antonio Lisciandro e grazie a Gino Pellegrino, linea alla regia, ma continueremo sempre a parlare ancora di meloni, di cocomeri e di anguri, perché hanno veramente una duttilità incredibile. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, abbiamo detto anguria, melone, l'estate richiama questo, ma con l'anguria si possono ottenere anche delle cose incredibili, dei sapori veramente impensabili. Ebbene, tempo fa guardavo la televisione, stavo vedendo una bellissima trasmissione in cui era protagonista Davide Scabin, che è il noto chef di Combalzero di Rivoli, e mi ha ricordato un suo piatto storico, l'ostrica virtuale. Qualcuno può dire: ma cosa c'entra l'ostrica con quello di cui stiamo parlando? C'entra, e come, perché questo, diciamo, l'ostrica virtuale, appunto virtuale vuol dire che non c'è l'ostrica, ma c'è l'anguria e la bottarga. Buongiorno a Davide Scabin, che abbiamo pescato a New York. Buongiorno. Buongiorno Davide. Buongiorno. Allora, devo dire che questa tua intuizione che l'anguria combinata con la bottarga può dare la sensazione appunto di un sapore che non è quello tradizionale. Vuol dire che quindi l'anguria ha questa duttilità. Ma guarda, nel tempo poi ho scoperto che l'anguria veramente può essere usata in molteplici situazioni. Quella lì che è nata non diciamo proprio in modo casuale, ma un po' fortuito, perché io era il 1997, stavo tagliando dell'anguria, mia sorella stava facendo la bottarga, sono passato vicino, avevo le mani bagnate di succo d'anguria, prendo una fettina di bottarga, la metto in bocca e ho sentito un gusto che mi piaceva molto. Poi per associazione di idee, in Sardegna la bottarga si mangia con delle mandorle fritte intere con un po' di sale, ho detto ma proviamo a mettere la mandorla, aggiungendo la mandorla e mi sono trovato in bocca questo gusto di ostrica, e quindi ho detto wow, abbiamo inventato qualcosa. E di lì l'anguria ha avuto sempre così un po' un occhio di riguardo da parte mia, e quindi l'ho usata anche veramente arrostita, in tantissimi altri modi che normalmente non si usa. Ecco, tu ora però questa ostrica virtuale, cioè l'hai ricostruita in altra maniera. Prego, non sento bene perché sono in uno square, che sto facendo una spesa e c'è un po' di rumore. Ah, dunque sei al mercatino di grande, cioè al mercatino di Zero Miles, insomma, quello chilometro zero. No, ti dicevo che ho visto poi in televisione che tu sei partito dall'ostrica virtuale per fare un tuo virtuosismo, cioè far capire appunto il gusto, che partendo all'incontrario si possono sentire dei gusti completamente diversi da quelli che sei abituati magari a mettere in bocca. Guarda Davide, veramente stai parlando di una cosa che è l'ultima frontiera che ho scoperto, partendo da questo concetto che mi è spostato in testa leggendo un articolo su un ammortizzatore di una macchina che è il Quadralink. E io ho pensato che la lingua si muove allo stesso modo, e ho cominciato a pensare probabilmente se inverto l'ordine di entrata, certo, in bocca dei gusti primari ottengo cose diverse. E ho usato l'ostrica virtuale come cavia, l'ho smontata e quindi l'ho ricomposta in sequenza, e ti giuro che al primo boccone che ho provato ho preso la peggior combinazione che potessi trovare, è venuto fuori il gusto di un'ostrica marcia, di quelle proprio che devi buttare via, se no vai in ospedale per 3 giorni. E poi invertendo i fattori, quindi spostando su questa barretta di anguria la bottarga, invertendo le mandorle, mettendo le peperine, la bottarga al fondo, guarda, sono ancora commosso adesso, ho trovato dei gusti di ostrica diversi, ho trovato un'ostrica molto leggera come una Simbinic, e in un'altra sequenza ho trovato un'ostrica più forte tipo una Belong molto, molto iodata, e quindi lì mi sono reso conto che di nuovo con l'ostrica virtuale mi è ripartito un oceano da esplorare, perché allora, cioè, io dopo 35 anni penso di non capire ancora niente del gusto, comunque, dopo quello che ho trovato. Però io credo che ci sia, a questo punto si possa tirare una regola, che cambiando l'ordine dei fattori il gusto cambia. Guarda, io ho le prove, è stata una cosa molto sperimentale, molto didattica, perché abbiamo pesato al decimo di grammo gli ingredienti, quindi gli ingredienti erano tutti pesati uguali, si invertiva soltanto la posizione degli ingredienti nel boccone che mettevi in bocca e avevi risultanti diversi. Da qui in poi io mi sento di dire che assolutamente sì. Poi ho scoperto che tutto quello che si pensava sulle papille gustative, che sono posizionate in un certo modo nella lingua, è tutto falso. Ogni papilla gustativa può recepire ogni gusto primario, e quindi ho capito che a seconda di come arrivano gli input alle papille gustative, quindi se sono prima gli aminoacidi piuttosto che gli zuccheri, piuttosto che le proteine a far partire il gusto, noi otteniamo delle combinazioni. Praticamente è come scrivere le note sul pentagramma, dipende il tempo di partitura di come arrivano. Penso di aver trovato un po' una cosa che in questo momento non c'è, e sono contento di parlarne per la prima volta con te. Bene, io ti ringrazio, ti auguro buona spesa a Union Square e presto magari verrò a sentire questa sperimentazione. Grazie. Sì, devi provare il quadra, io l'ho chiamato quadra lingua. Perché? Dall'ammortizzatore, insomma, dal nome dell'ammortizzatore. Dall'ammortizzatore. Ciao, grazie, ciao. Mille. Grazie a Davide, ciao, Scabini. Ciao a ora tutti. Torniamo nella terra dei meloni e andiamo da Cristiano Lorenzini. Buongiorno Lorenzini. Buongiorno. Buongiorno. Beh, Davide. Lorenzini ormai è un marchio, allora dico Cristiano Lorenzini, la gente pensa al melone. Ma sì. Lorenzini, ma come avete fatto voi, dice, senza tanta pubblicità, perché di solito diciamo i marchi si ottengono e hanno sviluppo e diciamo che la notorietà cresce con tanti investimenti. Voi invece l'avete fatto tutto sul prodotto, l'investimento. Sì, tutto sul prodotto, anche perché appunto l'azienda si è sempre incernierata sull'alta qualità, ma qualità nel senso appunto della garanzia al consumatore finale. Quindi prima di tutto abbiamo acquistato un analizzatore giapponese per misurare il grado zuccherino interno del frutto, e con questa tecnologia riusciamo a sapere quanto è dolce un frutto. Quindi diciamo che una volta che il melone parte da casa vostra, cioè dai vostri campi, sapete che quel melone ha tot di zucchero e quindi è un melone di qualità, è così? Esatto, esatto. Tutto è incernierato appunto su questo concetto qua. Ma prima, cioè da quando questo sistema è entrato in funzione? Cioè i giapponesi su che cosa lo usavano? Sulle uova? No, i giapponesi hanno il concetto del melone come un frutto sacro, e quindi da lì la tecnologia è partita molto più all'avanguardia che in altri paesi, appunto perché il frutto in Giappone è considerato questo melone sacro. Ecco, ecco, allora arriviamo proprio al Giappone, perché guardi, proprio l'altro giorno ho letto che in Giappone ci sono dei meloni che arrivano a costare 20.000 euro, sì, un melone di un territorio particolare. È vera questa notizia o è fantascienza? No, no, è vero, è vero. Leggevo ad esempio un articolo su un giornale che quest'anno il primo melone della varietà giapponese in Giappone è stato raccolto, battuto all'asta a 25.000 euro. Ecco, ma cosa c'ha questo melone che da 25.000 euro? Cosa c'è? In fondo sono 10 fette. Io personalmente non so di preciso che cosa abbia. Sono varietà che hanno loro e se ne tengono molto strette. Però non penso che abbia tanto di diverso da un altro frutto. È come vedono loro appunto questo frutto qua. Senta Lorenzini, lei sa come lo usano questo melone? Cioè se lo usano per mangiare, diciamo, come frutto oppure in altra maniera? Sì, penso proprio come frutto. Come frutto e come dessert in Giappone. Ecco, voi addirittura sul cocomero sì, incidete sulla, diciamo, sulla parte esterna il vostro marchio, sulla buccia il vostro marchio. Ecco, come fate a incidere quel marchio lì? Ecco, una volta che noi sappiamo quanto è dolce il nostro frutto, ci siamo detti: ma perché non creiamo una rintracciabilità reale del singolo frutto? E quindi ci siamo inventati questa cosa qua, che non è altro che una stampante sempre a laser che va a imprimere un codice numerico diverso frutto per frutto, per dare al consumatore finale una garanzia appunto di quello che c'è dentro il melone. Digitando quel codice lì sul nostro sito internet si apre la carta d'identità dove ci sarà scritto il grado zuccherino di quel frutto lì, si apre la mappa dove è stato raccolto e tutte le varie operazioni agronomiche che sono state fatte su quella pianta lì. Ecco, vi risulta che i consumatori ricorrono spesso, diciamo, a questo modo per capire cosa stanno mangiando? I consumatori di un certo livello sì, sì. Quindi voi avete riscontro di questo? Sì. E un'altra cosa volevo chiedere, diciamo che ci sono meloni che hanno una lacca rossa sì, sopra il picciolo. Questo cosa significa per il consumatore? Questo per il consumatore è, diciamo, soprattutto un qualcosa di estetico. È vero che il puntino di lacca rossa va a chiudere il picciolo, che però naturalmente una volta che viene staccato dalla pianta si può cicatrizzare. È più un fatto estetico molto bello da vedere, ecco. Ecco, riuscite anche a esportare voi ora dall'Italia? Sì, per un 23-24% della nostra produzione siamo riusciti a esportare in quasi tutta Europa, a Dubai e magari in futuro in Giappone. Ecco, mi sembra che di capire che il Giappone sia la terra promessa per il cocco, per il melone, perché se costano a questi livelli, magari se uno arriva con un melone zuccherino di buon livello non strapperà i 25.000 euro, no. Perché sono ancora scioccato da questo. Beh, però succedono. Molto di meno. Succedono in Giappone queste cose, a cominciare dal tonno, però non sapevo anche il melone. Beh, se diciamo che i giapponesi cercano la qualità ma sono anche esagerati sul prezzo. Bene, Lorenzini, io la ringrazio, grazie, e abbiamo finito questo lungo viaggio tra cocomerai, chi produce conserve, chi produce mostarde, chi lo usa per dissetare e chi addirittura ne fa un'ostrica virtuale come lo chef Scabin, oppure un antipasto come Pietro Lehmann. Quindi i modi per utilizzare melone e cocomero sono tanti in questa stagione, mi sembra che sia arrivato proprio il momento di farlo. Quindi abbiamo finito, come ho detto, questo viaggio. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento alla prossima settimana.